Allora, nonno drago, tu sei esonerato dal girare la ruota perché potrebbe farti male alle braccia e alle articolazioni. Non devi neanche forzare la voce, va bene quella tua naturale. Vabbè, quindi gira Gildo, vai Gildo. Ma ancora, non c'è Gildo, sei tu che la giri, è ma una Gildo, scusa però inutile. Ma Gildo, però non lui qua dietro non riesce con il braccino. Vabbè, gira dai, sta dai. Ruota. Metticela tutta, vai. Rughe. Rughe. Ma come rughe? Nonno drago, no. È perfetto per ma te. Ma io sono la faccia amica, non so tante rughe. Insomma. Come no? C'ho l'età, ma non ho le rughe. R, dai, attualità, ragazzi. R, rottamazione, una parola che si usa tantissimo. No, rottamazione, rottamare. Di cosa vuoi parlare? Degli sfasciacarrozze? Gli sfasciacarrozze avrebbero anche degli aneddoti forse da raccontarci. Però invece spieghiamo il termine rottamazione in senso lato. Bambino Alberto, in senso lato. Ma sì, dai, ma insomma, nei mesi passati si è tanto parlato di rottamare i politici di lungo corso per favorire i giovani, nel senso di non candidare più appunto i politici che avevano già avuto tante legislature alle spalle. Il profeta della rottamazione è Matteo Renzi, giusto? Sì. Lui è stato il primo ad essere rottamato. Anzi, lo sai che il suo camper con Adeffo è, l'ho visto in uno sfasciacarrozze smontato, ne stanno vendendo i pezzi in Bulgaria. Lo so, rottamatore rottamato, è così che succede. Però insomma qualche risultato l'ha ottenuto, perché per esempio Veltroni e D'Alema hanno fatto il famoso passo indietro. E adesso prendiamo il verbo rottamare, però cercando di capire in quali contesti usarlo a parte quello politico. Dai, si può rottamare innanzitutto un'automobile, vero Kappa? Sì, adesso non devi infilare il dito nel cambio, no, perché lo sai che ho rotto il cambio della macchina e che probabilmente verrà rottamata. Io giuro che non ci avevo pensato, stavo solo partendo dall'inizio, cioè dal contesto in cui è nato il verbo rottamare. Credo che la sua origine risalga ai primi incentivi per comprare l'appunto intorno al 1993. Interessante. Davi indietro la tua vecchia auto e in cambio ricevevi l'appunto con incentivi sulla rottamazione, così li chiamavano. E allora ha cominciato a circolare questo verbo rottamare, che prima prima non si rottamavano, si davano indietro le macchine, è vero, sì. Oppure si davano dentro, anzi, al concessionario, e ti compravi magari il modello nuovo della stessa macchina. Però poi uno ha cominciato a dire quasi quasi rottamo mia suocera e tac, il significato di rottamare è passato dal contesto delle automobili a quello dei rapporti umani. Vabbè, finché era la suocera a essere rottamata, poi si è cominciato a rottamarsi tra uomini e donne. Quante volte sono stato rottamato, lascia quante stare. Quante ne hai rottamate tu? Sì, però poi me ne sono sempre pentito, come Bob Dylan. Ma cosa c'entra Bob Dylan? Lui ne ha rottamate dozzine di fidanzate. Per favore, adesso cosa fai? Fai il nonno disc jockey? No, stammi a sentire la storia, perché non so dai. Dove vai a parare. Bob Dylan adesso si sarà anche abituato a rottamare le fidanzate perché c'ha una certa età. Sì. Però quando era giovane ogni volta si pentiva. Ecco. Quindi alla fine ha scritto la canzone definitiva sulla rottamazione amorosa. E adesso ce la presenti. E certo, ecco. I threw it all away, ossia ho rottamato tutto. Questo era il disc jockey, l'astigiano dolente. Canzone. I once held her in my arms, she says she would. Senti che voce, alla Elvis. Alla Elvis. Io ce l'ho solo in questo disco, questa voce. Quando stava morendo sul water dopo aver mangiato il panino con lo scoiattolo. I threw it all away. E poi vomitava tutto. Threw it all away. Once I hid mountains in the palm of my hand. Rivers that ran through every day. Wait, Gino. That must have been mad. I never knew what I had. Until I threw it all away. Love is all I am. It makes the world go round. Love and only love. It can't be denied. No matter what you think about it, you just won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. So if you find someone who gives you all of the love, take it to your heart, don't let it stray. Oh, one thing for certain, you will. gonna be a hurting. If you throw it all away, if you throw it all away, però anche i personaggi famosi, pensiamo a Lerner. Lerner è stato rottamato, eh. Non c'è più lunedì, torna un'altra serata il venerdì tardi. Vabbè, oppure Luttazzi, Luttazzi. Lui l'ha rottamato al tempo dell'editto bulgaro, insieme a Enzo Biagi, ma non Lelio, Daniele. Ah, Daniele. Non ti ricordi quando lui, Enzo Biagi e Santoro erano stati rottamati per ordine dell'allora presidente del Consiglio con il famoso editto bulgaro? Anzi, con il famoso editto bulgaro. Comunque, dei tre colpiti dall'editto bulgaro, Luttazzi è l'unico che non è tornato in video, salvo una volta con Santoro. L'unico, un momento. Uno dei tre, e non è Luttazzi, non è tornato mai più in video perché nel frattempo è morto. Ah già, giusto. Insomma, sì. Invece Santoro è tornato ed è il re degli ascolti con Servizio Pubblico. Invece Luttazzi. Luttazzi l'hanno rottamato per davvero. Povero Luttazzi. Anzi, magari ci sta ascoltando, quindi salutiamolo, no? Ciao Luttazzi! Ma ciao chi? No, niente. Luttazzi. Abbiamo perso un po' Lelio Luttazzi. No, Lelio Luttazzi era quello di Parade, un famoso disc jockey. Come te. Come me. Però anche lui mi sa che. Sì. È morto. E quindi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata sulla rottamazione e dobbiamo chiedere al bambino Alberto che cosa ha imparato da tutto questo bla bla appunto sul tema. Vai. Rottamazione. Rottamazione. Agito. Tema libero, tema libero. Hai finito di fumare questa sigaretta elettronica? Ma con chi parli? Ma no, chi è che fuma la sigaretta elettronica? Vabbè, Gildo. Ma no, ma dai, non è adesso, bambino Alberto. Anche fumare ti sei messo. Vedi, io no, è Gildo che fuma la sigaretta elettronica. Sì, poi, come mai la vedo con te? Vabbè. Elettronica. Io non vabbè. Ce l'ho. Rottamazione. Rottamazione. Rottamazione. No, ecco, io sento dire. Mio padre dice sempre. Di mio nonno, no? Mio nonno che è in ospizio. Che adesso abbiamo in casa per avere gli sconti. Sì, bla bla sì. bla. Che suo papà, no? Che suo papà. Sì. Dice. Ma il nonno è un rottame. No, vabbè, ma non è gentile. Ma cosa vuol dire un rottame? È un rottame che tra l'altro ci costa anche 500 euro. Ma come? Se ce l'avete in casa vi ma fa. Ma il suo papà lo dice con modo bonario, no? Ah, bonario. Ma però si chiedeva anche se, visto che si può rottamare quasi tutto, ma un nonno un po' così, che ti pesa sulla coscienza, non si può rottamare. Ma sì, lo mio porti papà all'ospizio, paghi quello che c'è da pagare. No, ma una rottamazione con incentivo, no? Ma in che senso? Cioè, i 500 euro sono quelli che si danno all'ospizio. Sì. Per evitare di pagare questo addendum, se si potesse fare una rottamazione, dice mio papà, ma che porti il nonno da qualche parte, loro lo accolgono, tu non vuoi sapere che fine fa, ti danno un incentivo, sì, contemporaneamente. Nel tempo. Ma che incentivo? Cioè ti pagano per... Ti pagano perché poi dopo loro prendono il nonno. E cosa fanno e poi col nonno? Magari ci sono dei pezzi ancora buoni e li possono vendere con i pezzi di ricambio. Tipo lo sfascia carrozze, lo sfascia nonni. Il traffico di organi umani, altro che... Che paroloni, cosa c'entra? Traffico di umani. Per esempio mio nonno, cioè, ci sente ancora abbastanza bene, no? E anche una voce abbastanza squillante. Insomma, riprendi le corde vocali. Allora serve una voce, dice, mi dai una voce. Cioè, guarda, mi è arrivato oggi in casa questo nonno... Ma vabbè, ho capito. Non si può. E non si può, no. È una persona, è il nonno. Vabbè, non dirlo a me, cosa c'entro io, mio papà, no? Che è il suo papà, questo è mio nonno. Io. Quindi tu con tuo papà in futuro penserai e farai le stesse cose. Beh, adesso vedo come va, se è una cosa che do un des, cioè che hai qualcosa in cambio, lo do dentro. E quando avrai tu un figlio, lui penserà così di te. Pensa. Ma se io non procreo, se io decido di non avere un figlio? E sta roba della cicogna che devi aspettare che arriva, e poi la metti sotto il cavolo. Ma non è così difficile, no? E se poi quel ma... giorno lì non arriva la cicogna, tu dovevi andare al bar perché avevi l'appuntamento per fare la schedina. Cioè, la schedina! La schedina. Cioè, la facciamo o no? Facciamo in società, c'è 50 euro? Ci facciamo il botto, prendiamo il sistemone. Il sistemone! E poi se vinciamo ti do le 25 euro di. Vinciamo, adesso mi dai 50 euro, se no non giochiamo neanche. Intanto fai fare un tiro della sigaretta elettronica che. Venerdì. Lo sai che hanno fatto anche la pagina Facebook del venerdì? Appunto, questo è un tributo. Venerdì. Grazie.